così Rosanne, un mio trasporto die moto a tanti inganni. Strane cose mi narri, ed egli appena te fede, ma signore come posseo cangiar di affette e non amarti lindo. So che se saggia e che griderà in vano a fronte del dovere in te l'amore. Peggior remedio a tanto male cercasti, venerante rustina, sconsolata da mia, la perdita imminente del lor figli vanne piorando, e lor maggior tormento è d'aver a pote fiero ostinato. Gettate le querele, i preghi, i pianti, or i mali suoi, or piange, or freme, e te d'ingiusta accusa. Pianto crudele che la giustizia offende, qui intanto sposo e re ce li m'adora, e per inutil fe cerca piaffanni. Imprudente colui ama i suoi danni.